Seconda parte di 451 frammenti sonori, Suburban Waves l'abbiamo voluta chiamare a trasmissione, una riflessione sui suoni periferici per chi insomma non ha ascoltato la prima parte, e finivamo con Sharon and Biden, abbiamo ripreso appunto proprio con loro, gruppo che viene dalla profonda America, forse questa profondità, questa periferia rispetto ai grandi centri, non so, pensando appunto a New York, pensando a San Francisco, grossi centri insomma musicali, Detroit, c'è questo appunto, questo legame piuttosto paradossale con il cosmo, con una fuoriuscita, ma forse proprio questo è l'aspetto che ci interessa, quello proprio delle immaginazioni anche che si creano proprio su le punte periferiche, su questi territori quasi abbandonati, forse anche fuori da quello che è un contesto poi piuttosto centralizzato, anche in questo senso, insomma, la suburbia, la periferia, anche come modo insomma di vivere poi la società, quindi staccato in un certo qual maniera, in una certa qual misura. Sharon and Biden portano questo mondo di immaginario, questo folk, come dicevamo prima, marziano quasi, con questo piccolo filo ancora che unisce al terrestre, ma che è di forte senso escapico, una fuoriuscita verso appunto un altrove che viene creato appunto a livello sonoro e in immaginario, ecco. E continuando da Sharon and Biden, continuando il nostro giro suburbano, se giro si può chiamare. Anche noi siamo un po'. Sì, ma siamo suburbani. Siamo suburbani. Bologna già è suburbana di suo, poi siamo nella periferia di Bologna, per cui qua dalle frequenze di Radio Città del Capo. E dunque siamo in pieno di questa dimensione suburbana. Siamo anche un po' rincoglioniti stasera. Questo tutti e due, un po' non scherziamo, sarà il clima, non lo so. Comunque sì, è un modo, ovviamente, una dimensione suburbana abbastanza particolare, molto italiana, italiota. In realtà la periferia, l'aspetto suburbano che cerchiamo di rappresentare è soprattutto quella legata alle grandi metropoli, la vicinanza appunto della periferia e della campagna vicina alle metropoli. Bologna sicuramente non è una metropoli da tanti punti di vista, insomma. Andiamo però a pescare, dopo aver ascoltato questo splendido doppio brano di non riesco a dire Sharon and Biden, okay, ci ho messo anch'io un po' perché in questi anni è un po' francese, non lo so, però non riesco. No, alla francese esce un'altra cosa. Ah, sì? Va bene, sì. Allora va bene, non Sharon lo so perché Biden, io non lo conosco il francese. Dunque. Andiamo a trovare invece una formazione inglese, londinese, i Rhyme. Si sa molto poco di questa formazione, che si muove in una dimensione tra techno, dubstep anche, dunque un territorio che abbiamo attraversato nelle due puntate scorse, extra techno e dubstep, però appunto ha una caratura molto molto intrigante, perché sembra voler rappresentare tutta la dimensione tribale metropolitana, portata però in una dimensione quasi lontana, una sorta di eco di un suono del passato riportato in una dimensione quasi appunto di ritorno, di ripartenza quasi primigenia, attraverso appunto un recupero di queste tribalità, forse in una dimensione post-atomica, post-nucleare, post qualcosa, per ricostruire una dimensione appunto di legame con la terra, col territorio, ma forse anche con qualche rovina rappresentata. Per noi l'immagine che ci viene più velocemente in mente, appunto, quella che abbiamo anche espresso nella prima parte della trasmissione, una fabbrica, una delle tante fabbriche che troviamo ancora oggi in tante città, in tante metropoli, nella prima periferia, nelle zone industriali abbandonate, e che nel tempo, anche a distanza di poco tempo, pensare anche a tante industrie, a pensare a Detroit, ma anche a tante altre città londinese, in primo luogo a Sheffield o altre zone industriali, dove appunto fabbriche anche costruite tra gli anni 70 e 80 completamente poi abbandonate, e adesso le possiamo ritrovare dei ruderi che vengono quasi piano piano fusi con le piante, con la natura, che si riappropria in parte ma si trasforma essa stessa in una simbiosi particolarissima. Ce ne sono tante di foto molto molto affascinanti su questo tipo di dimensione, e c'è anche molta fantascienza che recupera questa dimensione. Solaris in primis, ma anche altre, penso anche a Zardoz o altre cose di questo tipo, dove appunto viene rappresentata la nostra industria, la nostra tecnologia, poi abbandonata dopo una catastrofe e fusa in una combinazione molto particolare con il territorio. Rhyme dunque da un loro ultimo lavoro, un EP, hanno fatto solo 3 EP nel 2010 ed è appunto un EP uscito un anno fa, intitolato If Anywhere Was Here, He Would Know Where We Are. Non è una lezione in inglese, è proprio il titolo dell'album 2010, Rhyme. E siamo rientrati dopo questo splendido flusso sonoro, un disco assolutamente da ascoltare, ve lo consigliamo come tutti i lavori che abbiamo inserito stasera, ma è un personaggio che abbiamo scoperto da pochissimo, questo Tim Hacker, musicista, produttore musicale, autoproduttore direi, perché non è che produce dischi o etichette, comunque di Montreal, canadese, Tim Hacker, musicista che si è mosso anche in passato con la formazione techno, minimal techno come Jeton, che ha avuto un certo seguito, ma che bisogna dire soprattutto negli anni 90, alla fine degli anni 90, quando poi la minimal techno stava emergendo totalmente, ha lavorato anche per la Mill Plateau in un paio di percorsi suoi musicali, è arrivato però all'inizio praticamente degli anni zero a portare avanti una produzione personale come Tim Hacker, sempre più spostata verso un ambient molto sperimentale con questi droni, utilizzando effetti sonori, riverberi, echi a cascata, creando dunque dimensioni sonore sovrapposte, strati sonori che appunto creano un ambiente assolutamente spaziale, e ricorda appunto molto la dimensione periferica, appunto dalle periferie alle stelle, come dicevamo fuori onda io e Max. È un'atmosfera sicuramente sognante, aperta, che lancia quasi un solitario, una persona, chissà anche un cane verso lo spazio da una campagna. E appunto il disco che abbiamo ascoltato, almeno un brano che abbiamo ascoltato dal disco, è proprio intitolato An Imaginary Country, dunque una campagna immaginaria, uscito per la Cranky nel 2009, ottime recensioni per questo lavoro, ed è sicuramente una delle un progetto da seguire ancora, perché sviluppa appunto un suono molto particolare, assolutamente non datato e né riflesso rispetto a molti progetti che hanno trattato in varie forme tutte le dimensioni ambient o drone. E da Tim Hacker al disco In Imaginary Country andiamo a pescare una formazione che abbiamo in passato, un po' di tempo fa, inserito in 451, c'è di mezzo il cane. Infatti il cane Flea, mettiamo proprio quel pezzo qualche tempo fa quando uscì uno splendido doppio CD, tra l'altro dedicato proprio alla Dream House della Monte Young, così insomma si capisce anche dove vanno a parare Windy e Carl. Però come Tim Hacker, il pezzo che abbiamo messo all'epoca era proprio dedicato a Flea, il cane da poco morto, si sentiva infatti il cane che giochicchiava, com'è che si dice in friulano? Friulano? Quando il cane giochicchia nel trasselciato. Non te lo usciste so. Tu con la... Vabbè, non ti ricordi più neanche, no? Come quasi parla di periferia, Friuli più periferia del Friuli, potevi uscirti non con lo cose, so no, sinceramente no. mi colli in fallo. Vabbè, all'epoca mi ricordo che te ne uscisti con una cosa, non so, brigare, una roba del genere. E quindi vabbè, dedica fatta al cane, e forse il cane insomma che guarda il cosmo e, come dire, si lancia verso una sorta di follia acustica, sonora, immaginifica, boh, chissà, non vogliamo lanciarci tanto oltre. Comunque fatto sta che insomma Windy e Carl, coppia sia musicale che di fatto insomma anche coppia insomma in termini sentimentali, non soltanto artistici, dedicava questo pezzo a un cane, preda a voglie cosmiche quantomeno. E la loro musica si tinge sicuramente di quella, il disco infatti si chiamava Dream House, di quella voglie insomma di sperimentazione di natura insomma minimalista, però lato insomma alla Monte Young, forse Terry Riley, non assolutamente new yorkesi, Reich e Riley, ma soprattutto si avvicina a Tim Hacker proprio questo campagna immaginaria, questa campagna immaginaria che vive dentro il Midwest loro di Windy and Carl dal Michigan, e si tinge anche di un pop lunare molto così strano, che forse può ricordare certi anni 80, ma molto vagamente. La commistione è anche molto interessante, appunto, tra vagheggiamenti alla Monte Young e anche atmosfere dilatatissime alla 4AD, però veramente immaginate quel suono anni 80 post dark, veramente dilatato all'inverosimile, fino a raggiungere quasi una sorta di impampabilità, eppure riescono a essere anche pop in una maniera stramba, bislacca e quant'altro. Insomma, riescono a mettere nel loro mondo distaccato, periferico, Windy and Carch. Andiamo a prendere da un disco uscito più o meno recentemente, dedicato a una sorta di coscienza, appunto, così trascorsa e scorsa dentro i solchi tonori che andiamo ad ascoltare. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo aver mixato in questo flusso sonoro che secondo noi insomma era assolutamente ben bilanciato con lo splendido lavoro, con tracce chiaramente anche psicadeliche di Wind & Carl, con una formazione invece molto molto recente, un personaggio che ha intitolato il suo progetto musicale The Side Below ed è Rafael Anton Irisarri, dunque probabilmente di origine, addirittura potrebbe essere di origine basca, così mi lancio, mi sembra così con il cognome ricordare dei cognomi baschi o comunque di origine ispanica. Personaggio che è presente appunto nella scena di Seattle, dunque ha iniziato il suo percorso musicale in questa scena molto giovane, è uscito il primo lavoro nel 2008, Glider, per la Ghost International, e il disco che abbiamo appena ascoltato, la traccia del brano che abbiamo appena ascoltato, è tratto dal disco It All Falls Apart, uscito nel 2010, dunque l'anno scorso. Personaggio che si muove, come sentirete, in una dimensione ambient techno, ma anche qui la catalogazione è abbastanza limitata, queste dimensioni anche sognanti, flussi sonori, con una traccia anche ritmica che si sentiva appena accennata sotto questo drone sonoro, dimensioni molto profonde che ripercorrono un po' le strade perdute, lanciamoci con questa citazione linciana, dentro appunto le periferie suburbane e dunque i suoni periferici rappresentati da anche questo personaggio della scena di Seattle. Abbiamo un po' percorso vari territori, dall'Europa agli Stati Uniti, soprattutto per rappresentare bene le periferie comunque delle grandi metropoli, ma sicuramente ci potrebbero essere anche, però non abbiamo percorso queste strade, forse anche altre periferie di paesi, che ne so, asiatici o di altre zone australiane che potrebbero rappresentare, ma questa è una sorta di sfida che ci lanciamo noi per una possibile futura altra puntata su queste dimensioni sonore che abbiamo almeno in parte individuato nell'inizio forse anche del nuovo percorso radiofonico della stagione 2011-2012 di 451 frammenti sonori, dunque da ottobre, un percorso dentro appunto dimensioni periferiche per certi versi, attraversate dall'extra techno, la puntata di due settimane fa, la puntata scorsa invece dedicata alla dubology con la deviazione dubstep, per arrivare stasera appunto a Suburban Waves, per cercare un po' di capire o comunque di sperimentare queste sonorità che ci stanno affascinando e che forse potrebbero anche indicare un percorso futuro che anche noi che lavoriamo in termini comunicativi e radiofonici dobbiamo comunque porci, cioè capire, ascoltare, leggere, intravedere anche delle tendenze non solo attuali ma anche prospettiche anche a livello musicale. Vediamo comunque in molti progetti quanto nelle dimensioni comunque di questi territori stiano esprimendo moltissimo e forse potrebbero essere delle direzioni, ma potremmo anche sbagliarci. Boh, questo di fa parte fatto, della ricerca, no? Sì, no, ma di fatto comunque esistono, quindi lo sbaglio sarebbe insomma magari forse di parzialità, ecco. Sì, infatti legandoci a un presente, comunque un presente piuttosto vissuto per molte delle progettualità messe questa sera, senza mai scordarci, perché ci piace fare questo discorso e ci sembra utile quello comunque appunto del filo rosso che unisce sempre musicalità nuove, quelle che sono, certo, sperimentazioni nel corso appunto degli anni, e proprio per questo abbiamo voluto insomma omaggiare un personaggio anch'egli solitario come Side Below, da sempre, dagli anni 80, un suono periferico sia a livello geografico, come stasera abbiamo detto, sia a livello psichico, ma anche a livello proprio sonoro, di fatto una sorta di decentramento, questo un po' la parola chiave che stiamo usando questa sera, oltre chiaramente in maniera esplicita Suburban Waves e suoni periferici. Cindy Talk, progetto di Gordon Sharp, scozzese, e qua chi conosce un po' dell'industrial, però quello più veramente a questo punto laterale, periferico, sa di che cosa stiamo parlando. Prima progettualità legata alla wave punk, diciamo il post punk di Simon Reynolds, quello insomma veramente insomma con una forte connotazione legata a quella che era successo col punk, però con quel suono che appunto si prospettava diverso, e di fatto stava cambiando il DNA musicale. In effetti da Freeze diventa Cindy Talk, Gordon Sharp inizia con un industriale decisamente sperimentale dentro quell'espressionismo sonoro, quella cattività anche, chiamiamola così, legata anche appunto a questo decentramento, a questa periferia che rende la musica già dall'inizio di Cindy Talk molto particolare, molto peculiare, con ritmi taglienti, elettroniche brumose, mai comunque estetizzanti, ma sempre molto veramente cattive nel vero senso della parola, viste anche in una chiave appunto solitaria, quasi proto isolazionista, scusate il gioco di parole, ma di fatto Cindy Talk negli anni 80 è poco presente. I suoi dischi sono dischi di culto, Camouflage Art, In This World, e poi noi questa sera facciamo un omaggio a un disco dell'89, The Wind Is Strong, che poi è uscito l'anno successivo per un film dedicato all'eclisse, e quindi anche qua mondi insomma che vanno a ricercare momenti di estranità, momenti di quasi estasi, ma un'estasi insomma anche legata a un doppio filo, anche appunto con un'oscurità che proviene tra questo gioco di luci e ombre. E non è un caso che poi dopo molti anni la progettualità di Cindy Talk sia andata dentro la Mego, quindi quello che sembrava un progetto quasi relegato, periferico dell'industrial, poi diventi di fatto una sorta anche di maestro per nuove generazioni, appunto quelle legate alla Mego, quindi Pita, Fennez, gli austriaci insomma, che negli anni zero hanno fatto grande, hanno fatto fare un passo anche decisamente grosso la glitch music, facendola diventare anche anima e corpo, di fatto musiche che tante volte avevano un aspetto insomma quasi laboratoriale, di fatto è diventata molto insomma anche soul tra virgolette, un po' per animosità e senso insomma forte dato a questi esperimenti. E di fatto andiamo a prendere un disco dell'Amigo del 2010, ne è uscito anche uno proprio in questi ultimi giorni. Andiamo invece all'anno scorso, a Here in the Clouds, e proprio il titolo ci dice anche di qualcosa di Cindy Talk. E poi torniamo appunto dopo questo splendido pezzo di 8 minuti all'omaggio appunto del disco dell'89, che un po' anticipa appunto quelle che saranno le varie direzioni di un ambient che si va a intrecciare con la contemporanea, con un proto-isolazionismo e con quello che insomma è un suono periferico, splendidamente periferico in questo caso. Cindy Talk. Thank you. Thank you. Beh, dicevamo veramente suggestivo il suono di Cyndi Talk, purtroppo rovinato da un pezzo, vabbè, che era più adatto magari a altri momenti, non di certo diciamo all'isolamento. Non c'entriamo noi, non succedeva da un po' di tempo. Sì, ci sono dei automatismi un po' ridicoli. Sì, ci sono questi automatismi a livello mixer, allucinanti. Quando il segnale è basso parte un nastrone che è devastante a dire poco, perché partita sta roba da disco. Beh sì, però insomma più roba che da tocco, appunto, più che suburban waves qua, roba, tocchiamoci tutti, touch waves, touch waves. Più che suburban waves, touch waves, comunque insomma. Vabbè, comunque dobbiamo convivere anche con queste cose periferiche. Mio, la musica, questa è anche la periferia. Le musiche sperimentali, come dire, hanno vari ostacoli. Beh, a parte comunque il qualche secondo, insomma, di deragliamento su centralità, che questa sera evidentemente non c'entrano niente. Cyndi Talk, appunto, ascoltato da un disco uscito per la Mego nel 2010, e poi questo omaggio appunto al storico disco The Wind Is Strong del 1989, poi in realtà uscito l'anno dopo per un film molto indipendente, Eclipse. E in effetti poi finiamo anche con una memoria cinematografica prima citata, Le strade perdute di Lynch. In effetti il personaggio che stiamo andando a mettere è giovane, ma ha già partecipato insomma alla collaborazione con Badalamenti e quindi con Lynch. Eh sì, infatti un personaggio anche piuttosto molto giovane, direi che tenendo conto che ha iniziato a 18 anni a elaborare i primi progetti musicali, si tratta di Eric Skodvin, in arte Svarte Greiner, personaggio della scena norvegese che ha costruito addirittura a 20 anni una etichetta indipendente quando si è spostata a Oslo da Langesud, un centro molto periferico della Norvegia, per arrivare ad Oslo. Non che la Norvegia sia così centrale, no? Nell'ambito europeo e mondiale, anche la stessa nazione è piuttosto periferica, e ha costituito appunto questa etichetta e ha portato avanti i suoi progetti elettronici con un'attenzione comunque molto, molto forte rispetto agli elementi elettroacustici. Utilizza nelle sue composizioni non soltanto elementi prettamente elettronici, lavorando al computer, al laptop e altre strumentazioni, ma mette in collegamento diretto, in simbiosi quasi, anche suoni che lui stesso costruisce da chitarre, violoncelli, violini e corde anche proprio elettrificate, per costruire appunto delle sonorità molto particolari. Viene diciamo catalogato dentro i musicisti d'avanguardia, ma in realtà anche questa è una catalogazione piuttosto ampia, poco definita. Il musicista Svarte Greiner in realtà si muove su territori dronici, anche se poi appunto mette in connessione strumentazioni e origini degli strumenti molto diversificati, costruendo delle sonorità che in realtà ricordano molto certi suoni, certe atmosfere industriali, però con anche dimensioni di apertura che in questo brano in parte potremo soltanto notare, ma nel disco che andiamo adesso ad ascoltare, che è un disco uscito nel 2009, mappe per la type, si sente appunto soprattutto l'anima scura industrial che riesce bene a rappresentare comunque il suono di stasera dedicato appunto al Suburban Waves. Ricordiamo, come ha già accennato Max, che il personaggio molto giovane ha collaborato con Angelo Badalamenti per alcune colonne sonore, per parti delle composizioni delle colonne sonore per David Lynch, dunque già una collaborazione non da poco per un giovane musicista di quel della Norvegia. E a questo punto ci sentiremo questo brano e direi anche di salutare, no? Chiudiamo, sì, salutiamo qua, su questo brano carissimo. Adesso ovviamente ti saluteremo e speravi di scavartela. No, in realtà diciamo anche gli ascoltatori, numerosissimi ascoltatori che pressano la radio proprio fisicamente per avere degli autografi, anche dei bacini da parte nostra, autografi, delle carezze anche e degli schiaffi qualche volta. Diciamo che dalla prossima puntata condurrò da solo, perché il grande sempre, Max, per sempre, no vabbè, perché vado via fino a queste festività rovinose di Natale, perché voglio vedere veramente che cosa si farà quest'anno. Non credo che si riuscirà a simulare più di tanto, data la devastazione attuale e oltretutto preannunciata con il 2 di coppe per il futuro. Non due, basta il 2 di coppe, però perché diciamo le coppe in testa fanno ancora più male di bastone. Ho capito. Vedi, è molto sottile. Ci puoi mettere anche qualcosa dentro le coppe. Lì possiamo sbizzarrirci, qua ne abbiamo parecchia qua in zona, in campagna, dato che siamo nelle Suburban Waves. E ovviamente no, il punto è che le prossime due puntate, prima della fine dell'anno 2011 e l'apertura del 2012, condurrò da solo, perché il buon Max se ne va. Dai, in una terra magica per noi. Sì, la terra della no wave, dai, mettiamo così e basta. Chiudiamo. No, comunque dai, parte... No, vabbè, dai, è una cosa simpatica. Allora, ovviamente una buonanotte da Max Macchia. E da Eliseo Scarpa, mi stavi cogliendo così in fallo. In fallo? Qua di fallo. Qua di fallo, ce n'è da dire. Sì, noi ci sentiamo l'anno prossimo, fate bravi. Con Eliseo, non me lo trattate male. No, ma io arriverò molto, molto carico. Molto radiogenico. Molto radiogenico. Carico di che? Carico, sai, vabbè, di che cosa? Dai, sempre lì. Vabbè, dai. Ciao. Sono elementi Scatologici. Scatologici, fecali. Sì, vabbè, no? Il coil.